do la mia pace, dice il Signore, pieno d'amore, non è come il mondo dà, è una pace per sempre. Pace del Signore, pace di Adonai, pace che custodisce il mio cuore. Verso di me e mi dia la sua pace.